America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Mario Platero vi saluta da San Pietroburgo, città splendente, sole bellissimo, grandi specchi d'acqua. E qui fra poche ore si chiuderà il G20, uno dei G20 più drammatici degli ultimi anni per via dell'atteso cambiamento di copione. Invece di parlare solo di crescita, di posti di lavoro, di nuove regole fiscali, si è parlato soprattutto di guerra, dell'azione punitiva che l'America vuole contro la Siria, che Putin invece osteggia e non vuole, e un dibattito che ha coinvolto un po' tutti i leader, soprattutto nella serata di ieri, soprattutto nella cena. Di questo poi ovviamente si continuerà a parlare nei prossimi giorni, con sfumature in continuo cambiamento, anche perché in America c'è un dibattito politico che prevede un voto al Parlamento, e Obama è riuscito a ritagliare anche alcune ore per chiamare deputati, senatori, per cercare di convincerli a votare a favore di questa sua mozione per punire la Siria, colpevole di aver violato trattati internazionali, di aver usato armi chimiche contro innocenti. Ma un G20 non sarebbe un G20 se non si parlasse in realtà anche di economia. Nel comunicato che sarà emesso fra poche ore ci saranno vari punti dedicati all'economia. Lo stesso Presidente del Consiglio, Enrico Letta, in un incontro stampa dopo il bilaterale con Putin, ha identificato un importante passo in avanti per l'Italia. Sentiamolo. Il primo G20 da quando di fatto il G20 è nato, nel quale l'Italia non è in difficoltà e non è il sorvegliato speciale, perché gli ultimi G20, soprattutto quelli degli ultimi 3-4 anni, sono stati G20 nei quali l'Italia era il sorvegliato speciale. Oggi non lo siamo più, questo è un motivo di grande orgoglio dovuto alle scelte fatte in questi anni, in questi mesi, e vorrei che tutti fossero consapevoli dell'importanza e degli effetti benefici che ci può consentire di avere il fatto di essere un paese uscito dalla categoria dei sorvegliati speciali. L'Italia dunque non è sorvegliato speciale, dice Letta. Beh, in realtà un po' sorvegliato il nostro paese continua ad esserlo, perché alcune delle riforme chiave che dobbiamo fare, soprattutto in materia di cambiamenti strutturali, beh, ancora non sono state fatte. Ci sono delle debolezze di fondo di cui si è parlato a questo G20, e proprio per la tenuta del governo, ma nell'insieme devo dire che il presidente Letta ha dato delle indicazioni che riflettono quello che sarà il comunicato finale, e cioè dal punto di vista economico ci sono almeno 7 punti. Di questi, più importanti sono che finalmente si lavora per la crescita, non soltanto per stringere la cinghia, si cerca di rilanciare l'occupazione, si cerca di combattere la cosiddetta shadow banking, quel sistema bancario ombra che opera al di fuori di molte regole, si cerca di combattere l'evasione fiscale, l'evasione nei paradisi fiscali, l'elusione fiscale delle multinazionali, c'è una lotta contro la corruzione internazionale, soprattutto c'è l'idea di rilanciare il commercio svolge un ruolo chiave di nuovo per la crescita. Ecco, devo dire che però non vi farei un grande servizio se mi soffermassi troppo sulle questioni economiche, perché in realtà, come vi dicevo, è la Siria che ha dominato la posizione americana, è stata ribadita in modo piuttosto chiaro dall'amministrazione, dal presidente Obama, dai suoi uomini. Per esempio Ben Rhodes è venuto da noi e a un certo punto ha argomentato varie cose piuttosto interessanti, ha chiarito che l'America vuole seguire il tracciato del cambiamento politico attraverso la conferenza di Ginevra, attraverso il dialogo con la Russia. Si prevede un cambiamento di regime gestito, organizzato, non violento, però sottolinea l'America, sottolinea il presidente Obama, bisogna anche dare una lezione importante quando si verificano delle violazioni così eclatanti dell'ordine internazionale. È dunque lecito chiedersi come si comporterà a questo punto il nostro paese, e ho voluto chiedere al presidente Enrico Letta se ci fosse una possibilità di modifica della posizione italiana alla luce di quella che sembra essere una decisione acquisita da parte dell'America. Ecco, vi ripropongo questo scambio che ho avuto ieri con il Presidente del Consiglio perché mi sembra particolarmente interessante. Presidente Letta, l'America non chiede all'Italia e ad altri alleati una partecipazione militare per l'operazione in Siria, ma un'adesione politica e morale. Quella sì, quella la chiede, soprattutto se ci sarà l'ok del Congresso, ecco, indipendentemente da una partecipazione militare. E dunque l'Italia pronta a dare un appoggio morale a quello che l'America farà, come dice Obama, per conto del resto del mondo? Non ho nessun dubbio del fatto che, mentre il nostro quadro giuridico ci impedisce qualunque partecipazione rispetto a un'assenza di autorizzazione da parte delle Nazioni Unite, e mentre ritengo che la condanna dell'utilizzo di armi chimiche debba essere assoluta e inequivoca, penso anche che svilupperemo la discussione attorno alle modalità, alle forme con le quali questa discussione si svilupperà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma un punto ce l'ho chiaro e certo: l'Italia non ha nessuna intenzione di strappare nei confronti dell'alleanza che riconfermiamo essere un'alleanza strategica con gli Stati Uniti. Da parte nostra c'è, l'ho detto prima, la comprensione tra alleati è un termine assolutamente chiaro. Ovviamente siamo in un passaggio molto delicato, abbiamo approcci diversi rispetto a questa vicenda, ma sono approcci che devono tener conto della complessità del quadro globale, della soluzione politica di un governo transitorio che uscisse da Ginevra 2, quindi da una nuova conferenza di pace da fare subito, e c'era chiarissima l'indicazione della sanzione per l'utilizzo delle armi chimiche, di cui già si parlava allora a metà giugno. Penso che ripartendo da lì si possano fare dei passi avanti. Io auspico che la presidenza russa di Putin del G20 usi tutte le armi a sua disposizione per riuscire a evitare strappi, a evitare divisioni, a trovare soluzioni positive, anche in base alla richiesta di quella lettera che il Papa ha rivolto a tutti e che, ripeto, dobbiamo tutti assolutamente prendere sul serio. Quindi, scusi, lei dice se gli Stati Uniti intervenissero l'Italia sarebbe moralmente al loro fianco? Dipende ovviamente da che cosa sarà, da cosa succederà. Per adesso io non sono in grado di aggiungere altro, perché il problema è ovviamente quali sono le differenti interpretazioni rispetto a possibili iniziative militari. C'è chi le interpreta come iniziative che sono finalizzate non soltanto a una sanzione rispetto all'utilizzo delle armi chimiche, ma c'è chi può interpretarle come un'azione che è un inizio del quale poi non si sa qual è la fine. Sono ovviamente scenari molto diversi e so per certo che questo è uno dei motivi che blocca e che crea oggi così tanta difficoltà. E aggiungo, mi rendo conto di tutte le difficoltà, ma so benissimo che questa è una vicenda rispetto alla quale non è assolutamente possibile fare dei ragionamenti che non tengano conto di evoluzioni di scenari che sono, se ci facciamo caso tutti, avvenuti negli ultimi 10 giorni in modo anche sorprendente. Insisto molto sul fatto che l'Europa non può andare in ordine completamente sparso in questa vicenda, quindi insisto molto sul fatto che noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare perché le istituzioni comunitarie prendano un filo e riescano a tenere uniti i diversi paesi. Lo ritengo un fatto molto importante e l'occasione del G20, che siamo qui in diversi dei protagonisti, anche a livello di istituzioni comunitarie, useremo fortemente questa occasione per riuscire a cogliere quegli obiettivi che citavo prima. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questo G20 russo, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dirvi, c'è una curiosità, questo G20 di San Pietroburgo: se andate su Google e mettete logo G20 russo o G20 San Pietroburgo, vedrete che sopra la scritta G20, c'è come dire una specie di rettangolo, di parallelepipedo con delle linee che si aprono sopra, e il profilo è quello di una batteria di lanciarazzi tipo i Katyusha che sono montati su un camion. Alcuni sono domandati, ma insomma, come benvenuto può essere un po' curioso, è una gaffe voluta? Ci hanno detto no, in realtà quel profilo è il profilo della città di Pietroburgo, ma devo dire questo collegamento involontario con i Katyusha mi ha divertito molto e dunque vi propongo Katyusha. Da San Pietroburgo, al seguito del presidente Barack Obama, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!